nostra serata dedicata alla montagna. Vi saluto a nome della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che è qui al Centro Trevi da alcuni anni e si trova al piano terra. Come nostra così missione, la portiamo avanti con grande convincimento e passione, quella di organizzare continuamente degli incontri con autori e autrici, ma soprattutto di cercare di organizzare queste cose con le risorse e le associazioni che operano sul territorio. La splendida occasione che si è presentata quest'anno è quella che ci ha offerto il CAI di Bolzano con la mostra Gasherbum 1958, perché nelle attività collaterali abbiamo iniziato a mettere in piedi un calendario e anche la biblioteca è riuscita a realizzare alcune serate, tra cui quella di stasera, che vede come ospite appunto Alessandro Boscarino, che saluto e ringrazio di essere qui con noi, autore appunto del libro K2 Storia della montagna impossibile. Ringrazio anche Luca Fregona, che si è reso disponibile nell'accompagnarci in questa avventura, e ringrazio in particolar modo Cristoforetti e Maurizio Veronese, che sono qui con noi, rispettivamente il presidente e vicepresidente della sezione CAI, che invito ad aiutarci a introdurre questa serata, visto che sono esperti di montagna e sanno benissimo com'è andata tutta la faccenda. Ci saranno anche altri appuntamenti. Consentitemi un piccolo spot. Stiamo facendo con l'Ufficio Cultura una mostra dedicata a Leonardo, si trova presso l'università, la Libera Università di Bolzano al primo piano, e anche in questo caso la biblioteca organizza una serata che sarà il prossimo lunedì dedicata al tema da Leonardo a Raffaello. C'è con noi anche Cristina Lenti, che vorrei ringraziare perché è una collega dell'Ufficio Cultura che ha promosso questo incontro fatale con Alessandro Boscarino, devo dire. Ecco, quindi la ringrazio voi di essere qui con noi e passo la parola a Maurizio Veronese. Grazie. Grazie a te. Bene, grazie a Silvana, a Valeria, scusami. E buonasera a tutti voi. Come CAI Bolzano ha già anticipato appunto Valeria, il discorso che tutti questi eventi collaterali che stiamo mettendo insieme, e questo grazie alla Biblioteca Claudio Augusta e grazie poi anche ad altre associazioni, tra cui l'UBAR, che proprio venerdì qui in questa sala ci racconterà la storia del dirigibile Italia, e qui c'è, vedo presente il generale Vidulic che sarà il relatore e mi fa molto piacere. Ecco, sono tutti eventi che abbiamo voluto mettere proprio a contorno della mostra del Gasherbum, che l'idea è stata: portiamo questa bellissima mostra, il Gasherbum 4, 1958, 8 alpinisti italiani che per la prima volta salgono questa parete grandissima del Gasherbum 4, tuttora parete mai più salita da 60 anni a questa parte. Ci hanno tentato l'anno scorso, poca fortuna dei militari, e uno ha perso la vita nella discesa purtroppo, e quindi portare solo la mostra ci sembrava poco, ci piaceva invece creare degli eventi attorno, e una serie di eventi, ragionando appunto con Valeria e con la biblioteca, è stato: perché non presentiamo alcuni libri inerenti un po' alla montagna? E la scelta poi è cascata appunto anche sul libro del K2 che avevamo visto di Alessandro, un libro fantastico che vi invito poi a sfogliare, a guardare, perché rapisce nella composizione, nella struttura del libro, che poi lui ci racconterà. Bene, io chiudo perché poi gli eventi ce ne saranno molti, li vedrete sull'Alto Adige, perché in questo ringrazio Luca Fregona che ci sta dando una mano con il giornale Alto Adige, pubblicando man mano tutti i vari eventi che stiamo organizzando. Vi assicuro che sono tanti, uno solo ve lo anticipo: 14 dicembre avremo Dacia Maraini qui in questa sala. E speriamo di riempirla perché merita Dacia, figlia di Fosco Maraini, l'autore delle foto della mostra del Gasherbum e presente alla salita al Gasherbum. Io chiudo qui e lascio la parola adesso a Luca e ad Alessandro, e grazie per tutto quello che avete fatto, grazie mille. Buonasera, vi presento un po' stasera quello che è stato il processo. processo che mi ha portato poi a comporre, a scrivere, a progettare questo libro. Non vi parlerò della storia del K2, ma più che altro di come mi sono appassionato a questo mondo e di come sono arrivato nell'arco di questi 5 anni che mi hanno portato poi a pubblicare con Rizzoli Lizard questo mio primo e per ora unico libro. Ok, io sono un di professione faccio il grafico e questo è un poster dedicato al risotto alla milanese, una tipica ricetta della mia città. Questo per dire che la grafica è una mia passione oltre che essere la mia professione, quindi quando ho delle altre passioni collaterali, delle cose che mi interessano, poi tendo sempre un po' a provare a tradurle con quello che è il linguaggio grafico, quindi utilizzando gli strumenti che io conosco. Ecco, questa presentazione è fatta anche un po' di persone. Questo signore qui è mio cognato, lui mi ha regalato una decina d'anni fa il primo libro che ho letto sul tema della montagna, che è un libro anche un bestseller molto controverso, poi per la vicenda di cui narra, quindi narra di questa tragedia avvenuta sull'Everest. Ma questo libro mi ha aperto un po' un mondo, perché mi sono accorto che, a prescindere dal fatto che fosse incentrato su una tragedia, questa storia dell'alpinismo mi interessava molto. Sono tornato pochi giorni dopo in libreria e ho preso qualche altro titolo, tra cui questo libro di Ed Bistrus, che è uno scalatore americano che ha salito il K2 nel 94 e che ha scritto un libro diviso in due parti, in cui racconta la sua personale vicenda e racconta anche un po' la storia della montagna. Questo libro è stato quello che un po' mi ha fatto iniziare questa specie di mania che poi mi ha portato a approfondire il tema e a riempire un'intera libreria di libri dedicati a questa montagna. Per la gioia dei familiari, qua mi sono appropriato di due scaffali interi. Ecco, come dicevo prima, la grafica è una mia passione. Diciamo che in generale i libri che riguardano questo argomento, la montagna, a parte i grandi libri fotografici, non hanno molta cura per questo aspetto, quindi sono tutti più o meno, seguono dei canoni che sono una parte scritta. Al centro invece ritroviamo spesso le foto dei personaggi coinvolti nella scalata e troviamo anche il percorso seguito nelle spedizioni. Ecco, nel mio caso, quando leggevo questo qua, per esempio, il libro sulla scalata della parete sud dell'Annapurna, quando ci sono determinati fatti o personaggi che intervengono nella storia, io continuavo a fare questo processo di leggere, andare a cercare le facce, andare a cercare i campi per provare a immaginare poi realmente dove questi avvenimenti avvenivano. E diciamo che questo processo era un processo un po' macchinoso, che poi mi portava a perdere il filo, a perdere la pagina, insomma. E da qui ho cominciato a pensare a una narrazione che potesse coinvolgere testo, fotografia, illustrazione, insomma, qualcosa che riuscisse sulle stesse pagine a farti leggere, ma anche a farti immaginare il luogo in cui sono avvenuti questi fatti. Questo è il primo file del libro, è datato 2013, quindi insomma ci ho passato sopra parecchi anni e eccolo qua. Allora, come dicevo prima, ci sono diversi aspetti che ho curato. Uno di questi è la parte, diciamo, cartografica. Un tempo, all'inizio del Novecento, anche tutto il 1800, l'arte cartografica era qualcosa di molto curato, in cui gli stessi esploratori si cimentavano in queste rappresentazioni. Col passare degli anni e dei libri, diciamo, riguardanti poi gli anni 70 e gli anni 80, questa tradizione si è persa totalmente. Ci siamo trovati, almeno io mi sono trovato, a leggere parecchi libri con delle rappresentazioni poi del contesto geografico schematiche, scarne, a volte qua è anche difficile poi capire che cosa è cosa, quindi Ho voluto partire dalla cura per l'aspetto geografico, quindi mi sono servito di diverse tecniche, questa, diciamo, partendo da lontano, questa è l'area del sud-ovest asiatico in uno scatto della NASA, invece poi andando più vicino verso la montagna ho usato altri espedienti. Questa qua è una visualizzazione di Google Terrain che mi ha permesso poi di arrivare sempre più vicino, quindi qua vediamo già il Val Toro, il Kashmir, eccetera. Ecco, per poi avvicinarmi ancora al K2, questo tipo di rappresentazioni non erano più necessarie e non mi davano quello che io stavo cercando, quindi a questo punto è subentrata una delle persone che ho coinvolto e che hanno messo, diciamo, un bel timbro personale a tutta questa a tutto questo racconto, che è Marco Camandona. Marco Camandona è ormai un amico, un signore che disegna montagne e fa quello di mestiere da 30 anni e che ho coinvolto e che è stato subito entusiasta di questo progetto e mi ha permesso sia di arrivare sul Val Toro più vicino al K2, ma poi di avere anche delle viste impossibili. Questa è una vista che in fotografia non potrebbe esistere perché c'è una montagna di mezzo, quindi abbiamo fatto dei lavori un po' strambi, fino a poi ad arrivare a anche quelli che sono i dettagli della scalata. Questo è un passaggio chiave della salita al K2, il Camino Bill, quindi Marco mi ha aiutato su questo fronte. Attingendo poi da altri personaggi con cui io avevo avuto a che fare nel corso della mia vita professionale, questo signore qua è un brasiliano chiamato Paolo, che è un disegnatore che fa anche dei gran bei ritratti, e ho coinvolto lui per quello che riguarda tutti i ritratti dei personaggi. Ecco, questo mi ha permesso di riuscire ad avere del materiale di una qualità ottima, partendo da alcune fotografie, quelle dei primi del Novecento, alcune anche degli anni 50, di scarsissima qualità. Quindi lui, partendo da una fotografia, praticamente è riuscito a tirar fuori dei dettagli e dei volumi che io non pensavo fosse neanche possibile fare, e con questo metodo io sono riuscito a trovare una coerenza visiva a tutto questa storia che prende 100 anni più o meno, e in questo modo, partendo dall'espedizione dell'Ottocento fino ad arrivare a quelle del primo dopoguerra, del secondo dopoguerra, insomma, sono riuscito ad avere tutto un linguaggio comune che poi mi ha permesso di insomma, raccontare questa storia. Lui è intervenuto poi anche sulle fotografie delle spedizioni, quindi insomma un lavoro mostruoso che io ho apprezzato moltissimo. Un altro aspetto che poi ho curato io personalmente è stato tutto quello della ricerca iconografica. Insomma, questa è la Fondazione Sella, lì a Biella sono abbastanza di casa perché li ho tartassati per anni, e devo dire che sono stati tutti molto, molto disponibili e mi hanno dato del materiale incredibile. Questi sono alcuni scatti di Vittorio Sella, insomma un archivio sconfinato e di una qualità impressionante, poi contando che queste qua sono fotografie dei primi del Novecento, insomma fa abbastanza impressione. Insomma, poi lui era abbastanza matto, si portava su dei macchinari, delle lastre enormi, insomma un processo che all'epoca era fantascienza, insomma. Penso che lui se lo potesse permettere andando poi con la famiglia reale, insomma, avevano, penso, un discreto padre. Questo è un archivio, diciamo, sconfinato. Poi sono andato poi anche a interpellare tutti i vari veterani e tutte le varie famiglie delle persone coinvolte in tutta questa storia, io personalmente tramite Facebook, tramite mail. Questo signore qui è Lee Molinar, che è l'unico superstite, speriamo che stia in vita il più possibile perché è una persona veramente speciale, ha 101 anni ed è l'unico superstite di tutte le vicende narrate nel libro, e è stato un membro della spedizione del 53 degli americani ed è un esploratore, una guida, è una splendida persona. Quella lì è sua figlia, insomma, che mi ha permesso di attingere a tutto il suo archivio fotografico personale, con anche una serie di inediti che è stata così gentile da donarmi. Ecco, a questo punto io, mentre andavo avanti con questa ricerca e con tutti questi materiali, ho cominciato a pensare a questa idea di come poteva essere l'impaginazione, di questa impaginazione al soffietto, che ti permette di avere una lettura normale, ma anche poi una lettura come se fosse un'unica lunga narrazione. E con questo piccolo prototipo ho provato un po' a... insomma, mancavano due cose in sostanza. Una, scriverlo. Io non nasco scrittore, non avevo scritto niente prima di allora, e un altro era quello di trovare poi un editore, qualcuno che lo rendesse reale. Questa signora si chiama Mirella Tenderini ed è una scrittrice giornalista e scrittrice di montagna, alla quale sono andato a trovarla a Piani Resinelli, che è un posto sopra Lecco. Questa è la vista dal balcone di casa sua, questa è la fine del lago di Lecco e l'Adda. L'Adige? No, mi sono perso. Vabbè, facciamo finta. Giusta la prima? Sì. Ok, no, ho fatto un piccolo flash. E insomma, lei mi ha aiutato un po' a trovare il modo di narrarlo legandolo alle immagini. Insomma, il lavoro con lei è stato molto utile. E come dico sempre, questo progetto è stato un progetto in cui ero una specie di regista, ma gli interpreti erano tanti, quindi ho avuto tanti aiuti. Un altro aiuto, facendo un salto geografico importante, è questa isoletta a nord di Amsterdam, si chiama Texel Island, abbastanza piatta come vedete, e qui ci abita questo signore che si chiama Bob, ha un cognome olandese impronunciabile, quindi io lo chiamo sempre Bob. Lui, oltre ad essere stato al K2, aver provato la salita e essere arrivato insomma a una certa altitudine, è uno dei maggiori storici di alpinismo internazionali, e storico, poi raccoglie cimeli, insomma un vero appassionato di montagna a 360 gradi. Ecco, a lui non sono potuto andare personalmente a incontrarlo, ma ho mandato un video in cui io sfogliavo questo prototipo e dopo anche lui essere stato tartassato per un anno più o meno, ha ceduto e mi ha aiutato alla sola condizione che fosse suo l'ok per andare in stampa, e quindi che lui desse il suo, diciamo, marchio di qualità su tutte le date, le altitudini, eccetera. Quindi a titolo totalmente gratuito mi ha dato una grossa mano. Quindi questo è stato un po' un lavoro di relazioni. Questo è uno schema che io ho fatto poi a posteriori, in cui racconto un po' tutte le connessioni che ho creato e che mi hanno portato alla creazione di questo libro. Quindi Europa, poi c'è Sud America, Nord America, anche qualcosa in Pakistan. Ecco, a questo punto mancava solo un tassello, che era quello dell'editore. Questo ragazzo qua a sinistra è il mio diciamo, migliore amico, mio carissimo amico di vecchia data, che si chiama Michele. Lui aveva... di solito noi non parliamo tanto di lavoro, ma parliamo più di altri temi, ma un giorno per caso avevo con me questo prototipo, lui ci ha dato un'occhiata e mi ha detto: guarda, io posso farti incontrare questi signori di Rizzoli Lizard, che fanno prevalentemente fumetti, però può essere che gli interessi. Fatto sta che li ho incontrati dopo un mese, siamo andati a pranzo in un ristorante, questi signori qua sono Pasquale e Simone, siamo andati a pranzo in un'osteria milanese a Corvetto, che è un quartiere dove avevo lo studio, e dopo una mezz'ora gli ho fatto vedere il prototipo e loro mi hanno detto di non farlo più vedere a nessuno, perché l'avrebbero prodotto e loro sono. Quindi dopo 5 anni di questo processo lento, in cui comunque sono passato attraverso anche diversi fallimenti, ho provato con alcune case editrici, non è andata bene, insomma, ho detto non pensare mai di riuscire a farci una lira. Ho trovato fortunatamente dei signori che poi appartenevano al più grande gruppo editoriale italiano, e grazie a loro sono riuscito ad avere questo oggetto in mano, stampato e distribuito in tutta Italia, tante copie, e questa è un po' la storia. Essendo poi io grafico, ho fatto anche un sito su cui si può vedere un po' le diverse possibilità che si hanno con la lettura, in cui sono video, immagini e filmati di come funziona questo libro. Questo è un po' il racconto. Se siete d'accordo, io faccio qualche domanda così, giusto per qualche curiosità che ho io, e poi dopo magari se qualcuno vuole porti le domande. Come? Allora, innanzitutto a me piacciono i libri, quindi sono contento che anche un... Quanti anni hai tu? 37. Beh, sei un ragazzo. Sì. Cioè, che sia ancora attuale la voglia di farli, di scriverli e di proporli, perché la profondità e l'opportunità che ti dà un libro non la trovi da nessuna parte, anche in un ebook non la trovi, se è lo stesso libro non è la stessa cosa. E poi il coraggio che hai avuto di questo formato serpente, come è stato ribattezzato. Io ho letto con molta attenzione, all'inizio a freddo, perché non, ti confesso che non avevo letto di questo libro, quando me l'hanno proposto sono andato a vedere e sono rimasto molto colpito dall'idea e dal fatto che comunque sei riuscito ad usare degli strumenti che fanno parte della storia del libro e della storia della conquista del K2, cioè le immagini, i disegni, le cartine e i racconti. Tu adesso hai raccontato il percorso che hai seguito, però a me piacerebbe sapere, a me hanno colpito le storie che hai raccontato, che hai portato in questo libro, perché come hai spiegato benissimo è stata una conquista collettiva, si sono arrivati gli italiani ma perché hanno, tra virgolette, sfruttato, utilizzato le conoscenze delle spedizioni precedenti. Qual è la figura, qual è il personaggio da gli esploratori ottocenteschi inglesi che andavano a fare le cartine, le esplorazioni, non sapevano neanche cosa fosse magari un'ascensione alpinistica, a Walter Bonatti, alla Cedelli, ai conquistatori, ad Ese, ai conquistatori della Veta. Chi è che ti ha colpito di più e perché? Ma confesso anch'io che questa domanda mi è stata posta in un'altra occasione e io il personaggio che mi è piaciuto di più, che ho ammirato di più in tutta questa storia è Charlie Houston, che è stato capo spedizione due volte, nel 38 e poi nel 53, qui avevo proprio un'ossessione per questa montagna, questa salita. In particolare la spedizione del 53 è in assoluto quella che mi ha, anche se è stato un grosso fallimento, Messner l'ha definito, hanno fallito nel più bel modo possibile, una cosa di questo genere. E ho appena visitato la mostra sul Gasherbrum che è allestita qui al Pianterreno e ho visto una foto che mi ha colpito di un personaggio che è presente anche in questo libro, quindi dico due parole su di lui. Lui apparteneva alla spedizione del 53 di Houston, si chiama Pete Schoenig, è un americano appunto della spedizione del 53. E di Schoenig una sua vicenda epica: lui in quella spedizione salvò la vita a tutti i suoi compagni, praticamente sei alpinisti, molto stanchi, stavano rientrando perché uno di loro gli era venuto una tromboflebite, quindi era invalido su una barella, erano già 8.000 metri, quindi insomma sotto una bufera, un salvataggio molto complicato. A un certo punto uno di loro scivola e erano legati a coppie, le corde si ingarbugliano, praticamente questa prima coppia ne prende dentro un'altra e cadono in quattro, ne prende dentro una terza e cadono in sei, gli ultimi due, di cui uno di questi due era Schoenig appunto, lui si accorge di tutto questo avvenimento, pianta la piccozza nel ghiaccio, nella neve, ci si butta sopra e miracolosamente riesce a tenere su tutti quanti e grazie a questo suo salvataggio, a questa sua mitica piccozza che tra l'altro nel libro è presente in foto ed è esposta in un museo, mi pare a Seattle, salvò la vita appunto tutta la spedizione e fece sì che questa spedizione non si traducesse in una tragedia umana. Ecco, questa tua simpatia per gli americani traspare, cioè tu non devo dire sei molto riconosci i meriti di tutti, no? Però è evidente che traspare la tua simpatia per le spedizioni americane, già un po' hippie anche negli anni 30, rispetto alla struttura gerarchica militare di Desio, no? Sì, è vero, anche perché come raccontavo ho iniziato ad appassionarmi alla storia da un punto di vista americano, quando avevo letto prima un libro di un americano ed essendo poi il libro di Desio con un timbro molto nazionalista, insomma, frutto di quel tempo lì che fu. Devo però dire che i personaggi, i membri della Spedizione 54 erano dei grandi alpinisti, tra di loro c'era cameratismo, hanno fatto un'impresa incredibile e, insomma, peccato per come è andata a finire, ma insomma, tra di loro fino al fattaccio poi del bivacco delle Bonatti all'ultimo delle bombole, insomma, sì, nonostante diversi caratteri, compagnoni, eccetera, erano molto solidali ed era, c'era un, sì, c'era, ricordiamo, un visto che c'era Bolzano, che c'era anche Eric Abram, sì, che è stato sì, ho postato oggi tra l'altro un bel pezzo di video di Abram che parla di Bonatti. Ecco, molto, senti, sempre con molto garbo tu però sottolinei anche il ruolo dei portatori, quelli insomma che sono andati, che hanno contribuito in modo determinante, che erano poi degli scalatori, degli alpinisti, che non è mai stato effettivamente riconosciuto come una sorta di razzismo che ancora oggi secondo me un po' esiste, no? Ecco, ti va di spendere qualche parola su di loro, perché mi sembra anche giusto. Ma sì, assolutamente. Ci sono, all'interno del libro ci sono diversi ritratti di personaggi e i portatori, sia Sherpa che Unza, che poi sono quelli pakistani che sono subentrati poi dopo, quando il Pakistan appunto diventò nazione, trattati allo stesso modo, perché insomma alla fine erano loro che tiravano nella maggior parte dei casi, facevano un sacco di lavoro sporco, ma non solo. Per esempio, adesso ho un quoto, ce l'ho di davanti, vabbè, uno dei due della spedizione della 39 poi andò con gli svizzeri e fu salì in cima al Choyu, che è un 8000, insieme agli svizzeri, insomma, fu il primo pakistano, il primo nepalese a salire in cima al 8000. Quindi, a cui diciamo, viene riconosciuto, diciamo, anche un ruolo nella conquista? Assolutamente sì, assolutamente sì. Diciamo che Desio, per come l'ha fatto, tendeva molto a ignorarli e a non... Sì, sì, aveva un obiettivo e non citarli. Poi il povero Mahdi alla fine se lo dimenticarono per tanti anni, mutilato, insomma, certo. Era un fortissimo alpinista e la sua carriera venne troncata così. Senti, leggendo tutto il percorso, no, di un secolo sostanzialmente, dall'Ottocento ad oggi, così mi è venuto un link con la conquista della Luna, no? Perché un po' la motivazione che spinge questi uomini, perché sai che puoi morire, rischi tantissimo e comunque la vetta la devi conquistare. E, lavorando in un giornale poi locale qui a Totesino, mi è capitato diverse volte, anche tristi volte, di occuparmi di alpinisti che sono morti ritentando scalate, imprese dove erano morti i loro amici. Questa cosa mi sbarella sempre, mi lascia sempre così anche un po' interdetto, perché mi chiedo cos'è quella forza che quell'energia che ti spinge a dimenticarti, non so, di tua moglie, dei tuoi figli, della tua casa e ad andare. E tu che te la sei posta questa domanda, che risposta ti sei dato, se te la sei posta? No, me la sono posta e mi sembra veramente una cosa, cioè, boh, non lo so, ce lo devi avere, boh. Sì, ce lo devi avere, cioè io faccio fatica a star via un giorno, ho dei bambini piccoli e insomma, pensare di andare in un posto a rischiare la vita è una questione di passione, quando la passione poi supera un po' qualsiasi cosa. Non mi sento di dare un giudizio, perché non essendo io alpinista non so cosa, cioè io sono appassionato di grafica e di altre cose, nessuna di queste è rischiosa e in tutte le mie passioni comunque mi ci butto totalmente, quindi magari se avessi questa passione anch'io tenderei a comportarmi allo stesso modo, però fa impressione molto spesso. Cioè, ho letto tanti libri in cui anche Messner, mi pare, da prima figlia lui in spedizione, nasce, ritorna, poi riparte, insomma, sono è proprio la montagna, è una cosa che ti rapisce nelle viscere proprio. Senti, sempre in questo racconto ci sono altri due livelli di lettura. Uno è quanto la geopolitica influisca anche su queste imprese, no? perché la guerra, le guerre hanno bloccato le imprese, i confini le hanno ridisegnate, hanno creato nuovi ostacoli o nuove opportunità anche. E la seconda cosa è come comunque il desiderio di conquista dell'uomo, che alla fine è desiderio anche, è stato desiderio di questi uomini, porta anche a continue innovazioni sia nella medicina sia nel campo tecnologico, tu lo spieghi molto bene, no? Ci puoi fare qualche esempio di alcune di queste conquiste che sono state fatte, raggiunte attraverso l'impresa del K2 nel corso degli anni? Ma allora, questa domanda mi fa subito pensare a un personaggio che era Einstein, che è stato, era capo spedizione nella spedizione del fine dell'Ottocento, del 1898, con un altro matto inglese che si chiamava Aleister Crowley. Erano due personaggi. Scusa se ti vedo, perché sono dei personaggi incredibili. Sì, sì. Crowley era... nel libro li tratteggi bene. Tra l'altro Crowley è presente anche nella copertina dei Beatles, quella con tutte le faccine di Sgt. Pepper. Vabbè, detto questo, lui era un fabbro e sul K2 ha sperimentato una serie di sue invenzioni. Lui lavorava per la Grebel, che esisteva già all'epoca, e aveva sia sperimentato il primo prototipo di piccozza a manico corto, le piccozze erano delle specie di bastoni in cui si appoggiavano, quindi quello che poi è diventata la moderna piccozza, e inoltre i ramponi con le 10 punte, lui fu uno dei primi a sperimentare anche le punte frontali. Insomma, diciamo che il personaggio che mi viene in mente è quello. Poi, per esempio, Austin, di cui parlavo prima, lui era un medico e per anni poi ha lavorato a un progetto in camera, credo sia una camera iperbarica, che riproduce poi le condizioni di vita a 8000 metri, che ha studiato la reazione del corpo, insomma è qualcosa che, come dicevi tu, spinge in là i limiti e fa apprendere e capire anche come l'organismo si comporta a quelle altezze. Se qualcuno desidera intervenire, ho una domanda, una curiosità, se no continuo io. Sì. Va bene, continuo io. Allora, io la porto sempre sulle storie personali, le cose che mi aiutano anche di più a capire anche il senso di un'impresa. Nel racconto delle varie spedizioni emerge anche il problema dell'appartenenza alla classe sociale, l'aristocrazia inglese, verso magari un fabbro che si mette in testa che può scalare le vette dell'Himalaya. Ma infatti poi lui è stato ostracizzato. Ecco, raccontacela un po' questa storia. Ma Einstein poi c'è una storia pregressa. Lui era già stato il K2 con questo Conway, che era un aristocratico di Londra, e che è simpatico come poi questi gruppi assortiti in maniera assurda, perché insomma c'era la guida con col cliente, insomma c'erano tutte queste strane gerarchie. E alla fine nella questa spedizione di Conway era a metà dell'Ottocento, c'erano dei dissapori così grossi proprio creati da questa differenza di approccio, ma anche di classe sociale, che poi alla fine fu rispedito a casa perché litigavano furiosamente. Insomma, immagina tu sei lì, che solo per tornare in un luogo abitato ci vuole un mese, litighi e devi tornare in Gran Bretagna, non è come litigare. Sì, soprattutto se poi il tuo sogno è qualcuno che esatto. Ma comunque diciamo che ricollegandomi anche alla questione sherpa, portatori, eccetera, anche gli americani che si comportavano tanto bene con i portatori, insomma, io ho letto poi tutti i loro resoconti delle spedizioni, che purtroppo non ci sono in italiano, ma c'è sempre questo grosso divario in cui loro vengono apprezzati, ma comunque trattati come qualcos'altro. Sì, non schiavi, ma quasi, insomma. Senti, dal punto di vista invece italiano, no? L'Italia comunque, tu ci dai degli eventi già alla fine dell'Ottocento, ancora prima di Luigi Amedeo Savoia, ha dei personaggi che girano, guardano, vanno nell'area del Karakorum. È chiaro, no, questi personaggi, questi commercianti, cos'era? Ma in realtà l'unico che mi viene in mente adesso di questi personaggi è una figura mitica, che è questo Roberto Lerco, che ha viaggiato alle pendici del K2 e addirittura in un suo scritto parla di un risalto di roccia a circa 6700 metri, che poi è quello che è il cammino B, quello che ho fatto vedere prima, e quel risalto non può essere visto se non da una certa altitudine. Ovviamente, come tutte le storie leggendarie, c'è un grosso mistero, perché la sua casa andò a fuoco completamente, quindi si persero tutti i suoi documenti, e quindi c'è la possibilità che addirittura lui a inizio 800 fosse arrivato più in alto del Duca poi quasi 100 anni dopo. Questo è uno... È un precursore, sarebbe stato. Sì. Infatti ai tempi non si riusciva a avere poi delle informazioni così. Invece Luigi Amedeo Savoia che tipo era, che personaggio era? Ma a me stava molto simpatico, devo dire. Era dedito totalmente all'avventura, all'esplorazione. Quelli erano gli anni anche delle esplorazioni artiche, lui fece anche un record di vicinanza al Polo Nord, scalò in Africa, in Rubenzori, tutto il gruppo dei Monti della Luna, che hanno tutti i nomi di principesse del tempo, insomma, italiani. Non dimentichiamo che poi, quando andò lì al K2, fece salire sul Ciogolisa, che è un monte lì nella vicino, diciamo, anche se poi non è così vicino, e fecero un record di altitudine intorno ai 7500 metri, che poi resistette per 20 anni, quindi insomma. E poi leggendo anche un po' la corrispondenza che aveva con Sella e il suo atteggiamento e il suo amore per queste spedizioni, insomma, mi ha sempre fatto una grande simpatia, perché i rapporti fra di loro erano strani. Ma Sella si rivolgeva sempre con Sua Altezza Reale, ma poi dopo, quando entravi nel contenuto della lettera, sembrava molto più colloquiale, era un rapporto... Quasi amici. Sì. No, forse direi proprio amici. Forse sì. Amici. E invece la campagna, insomma, che si scatena dopo il secondo dopoguerra tra le nazioni, tu dici c'erano nazioni che volevano vincere la guerra, che volevano far vedere che erano più forti, mantenere quest'anno, e c'erano invece quelli che avevano perso, che volevano una rivalsa. In questo contesto, come ci inseriamo noi in Italia? Come ci inseriamo? Diciamo che ad Esio va dato merito, a parte le simpatie mie personali, di avere messo in piedi questa macchina incredibile, battendo gli americani, appunto, che a quel tempo diciamo avevano molto più potere. Lui, grazie alle sue conoscenze sul territorio sviluppate negli anni, aveva aiutato poi degli studi glaciologici, insomma, aveva aiutato a capire gli spostamenti di un ghiacciaio per salvare un paese. E non so se sto rispondendo alla domanda. Però noi stai partendo da lui, però diciamo che noi lui, diciamo, aveva un chiodo, no? Lui voleva conquistare il K2, sì, dopodiché sì. Era un abilissimo diplomatico, un martello, ed è riuscito a trovare le risorse, i soldi, i contatti, i permessi per farlo, no? Sì, certo, si può vedere qua nel libro, che ho fatto una specie di infografica all'inizio delle spedizioni, in cui si vedono le dimensioni delle varie spedizioni. E la macchina che mise in piedi Desio, tra alpinisti, andarono al piccolo Cervino a fare tutto un allenamento per provare i materiali, coinvolse tante aziende, una quantità di denaro spaventosa per il tempo. Diciamo che forse in lui era molto forte questo desiderio di rivalsa, di far vedere che l'Italia c'era, che l'Italia era forte. E in effetti la conquista poi venne celebrata come aver vinto il campionato del mondo di calcio. Cioè, esatto. Non per molto, perché poi, come si sa, grandi polemiche, grandi casini, purtroppo. Purtroppo è stato proprio un peccato. Ecco, senti. Senti una cosa. Sì. Desio ha fatto una ricognizione l'anno prima con Cassin e Tony Gobbi. Sì, sì. però nei Cassini, con i Gobbi, poi sono stati scelti da Desio per salire. Invece Cassini poi con Toni Gobbi si è rifatto con il 64. Ma sei riuscito a trovare la motivazione per cui non ha voluto, perché gli faceva ombra un Cassini che a quell'epoca era molto forte come agonista, aveva già fatto imprese notevoli, così come Toni Gobbi. Sì, magari più in italiano. Tendenzialmente la motivazione è questa, è quella dei due galli in un pollaio, diciamo, detta un po' in linguaggio spiccio. Cassini era fortissimo, l'ha dimostrato poi nel 58, lui è stato escluso formalmente per dei motivi medici, ma insomma non starà in piedi la cosa. Tra l'altro episodio divertente è che quando loro fecero la ricognizione nel 53, incontrarono poi gli americani che tornarono da quella spedizione lì, e gli americani, Austin, nella persona di Austin in particolare, non avevano nessun problema a condividere informazioni, esperienze, cioè fanno, poi si incontrano a Scarlo e Austin praticamente gli racconta tutta la salita, gli fornisce mappe, insomma era una persona molto, molto generosa, molto, molto carina, insomma. Io sono diventato amico di suo figlio perché gli ho chiesto un sacco di materiali e anche lui è stato veramente generoso, mi ha dato un sacco di foto a titolo gratuito. E quindi sì, è stato escluso perché non l'avrebbe messo in ombra. Poi si sa anche, no, la storia, il Desio poi veniva chiamato poi Lucetto da tutti i vari componenti. Cassin parte da una storia in cui aveva la testa del partito, però poi grande attivismo partigiano, e quindi probabilmente non andava tanto d'accordo. Ci sono... Esatto. Qualche domanda ancora? Curiosità? Cosa semplice, non ho capito bene da perché hai scelto il cattolico, perché è stata la montagna degli italiani o perché è stato il primo libro che ti ha appassionato, e poi se il K2 non hai avuto paura di trovarti, vista la vicenda che c'è stata, che è durata 50 anni, no, abbonati, cari, di scrivere un qualcosa che poteva mettere in gioco polemiche. Ma diciamo che le polemiche sono rimaste prima e dopo, anche l'anno scorso, dopo il mio libro è uscito un altro libro di un avvocato, adesso non ricordo, di Torino, che riscriveva ancora la vicenda, ma io ho comprato, ma poi ho aperto e non sono riuscito a andare oltre la prima pagina, perché veramente non è un argomento che mi interessa, anzi mi provoca proprio un dispiacere, perché mi è così piaciuta la storia e mi piace proprio concluderla con loro che tornano sulla nave come un gruppo, felici, se potete vedere le foto in cui loro tornano sulla nave verso Genova, come un gruppo unito, insomma tutto si scatena poi dopo con la relazione ufficiale di Desio. Invece per rispondere alla prima domanda, sì, è andata un po' così, ho comprato quel libro e mi sono proprio innamorato di queste spedizioni, di tutte, insomma. E poi ho comprato ogni singolo libro, a volte quando riuscivo in italiano, quando non riuscivo in lingua originale, e leggendo, poi continuando a leggere di altre montagne, una storia così articolata, poi una montagna così inaccessibile, perché anche solo arrivare ai piedi del K2 è un'esplorazione in sé, cioè devi fare comunque 2 settimane sul ghiacciaio a 5.000 metri, quindi io ho un po' il sogno di andarci un giorno, però se poi non ti adatti a quelle altitudini spegni un sacco di soldi, stai un mese con mal di testa, magari becchi anche brutto tempo, non lo vedi neanche, è un rischio troppo grande. Comunque sì, mi ha appassionato subito, e anche leggendo poi di altre montagne lo risceglierei tuttora. Dicevo prima nell'intervista l'Annapurna, scrivere un libro sulla prima salita dell'Annapurna. I francesi sono arrivati, non sapevano neanche che avrebbero scalato l'Annapurna e poi sono saliti in vetta, cioè quindi l'hanno visto per la prima volta e l'hanno salito immediatamente. mentre il K2 ha tutta una storia avvincente con di mezzo dei personaggi carismatici e bellissimi. Grazie. Niente. Voglio chiedere una cosa al volo. Quando si sono viste quelle quattro facce disegnate dalla persona che dicevi, e una di quelle credo era quell'americano austriaco, ecco il terzo, se non sbaglio, era quello che era, che sarebbe riuscito ad arrivare in cima se non si fosse fermato per non contraddire, diciamo, il suo sherpa che diceva che non si poteva andare. Esatto. È sicuramente un personaggio meraviglioso, perché lui c'era credo molti anni prima del 54. Ah sì, sì, era lì nel 38, nel 39, esatto. Seconda spedizione americana. Era un tedesco che però viveva negli Stati Uniti, e se non fosse stato quello sherpa, appunto, che l'accompagnatore che era lì con lui non gli dicesse, cioè aveva paura degli spiriti perché era erano così hanno detto, poi chissà. È tornato indietro, no? È tornato indietro, ma è arrivato quasi a 8004, quindi per ricollegarmi alla risposta di prima, fa impressione questo arrivare in cima, no? Per me è un po' strano pensarlo, perché qua siamo nel 1939 e questo signore calca la neve a 8400 metri e i francesi che scalano la Napurna arrivano a 8090, adesso non mi ricordo esattamente l'altezza, ma non supera gli 8100, quindi è un po' strano tutta questa questione. Diciamo che quella notte tra l'altro c'era luna piena, quindi si sarebbe potuti arrivare in cima, c'era un tempo assolutamente senza vento, una cosa rarissima, quindi diciamo che tutta la storia dell'alpinismo himalayano sarebbe stata diversa se quella sera lì, anche perché poi dopo quella sera di spedizione è stato un disastro clamoroso, perché c'è stato un sacco di problemi poi logistici, sono morte tante persone dopo. Sì, e forse magari anche negli anni successivi, eccetera, molte volte si è visto poi che molti alpinisti hanno scelto di dire, boh, tu aspettami, io vado su, insomma, perché di fronte a un'opportunità del genere. Certo. E invece sì, lui... Sì, sì, ma a parte il fatto che poi non si sa esattamente come siano andate le vicende, però posso dire che probabilmente a livello tecnico lui in tutte queste storie era l'alpinista più forte che abbia mai messo piede sulla montagna, fino poi alla salita del 54, che era veramente un mostro Wiesner, anche perché poi aveva un team debolissimo e batteva traccia sempre lui, insomma era veramente un super uomo. Grazie. Niente. Ancora qualche intervento? Sembra di no. Allora, dunque, uno come te sicuramente ha un'idea di qualcos'altro in testa. Prossima impresa? Sto lavorando a un libro che mi piace però da tenere un po' di riservato. Ma anche perché, visti i tempi biblici con cui creo questi... Ma sempre sulla montagna? Sì, sì, sempre sulla montagna. Sì, sì. Quindi... Sono un alpinista questa volta. Ah. Per non andare poi in conflitto. E sempre usando più, diciamo, strumenti di comunicazione. Sì, sì, non farò un libro così, anche perché quegli editori potrebbero uccidermi, perché comunque la produzione è stato molto complesso, diciamo. Però vorrei, cioè, ho apprezzato il fatto che tu hai detto che c'è ancora gente che fa libri. La carta ti dà tante opportunità e vorrei provare a ancora una volta provare a fare qualcosa di diverso, di strano, però in un modo un modo nuovo che non vada poi in conflitto con questo. Da parte di Rizzoli avevo una certa pressione a fare un Everest, a fare una collana del genere, però essendo che io, se non mi appassiona una storia, poi non rendo tanto. Non ti viene naturale. Non lo sto facendo mio, se poi non mi pubblicano. Senti, questo libro è stato anche indicato come molto con una forza molto divulgativa anche per i ragazzi, no? Sì. E nell'esperienza che hai, è facile portare i ragazzi a aprire un libro, a tornare alla carta in questo periodo, o trovi delle resistenze? Domanda difficile. Non ho abbastanza esperienza per rispondere, però una vicenda, adesso poco tempo fa sono stato a Pordenone a presentarlo a Pordenone Legge e c'erano dei ragazzi, metà teatro era pieno di ragazzi delle scuole e devo dire che ho trovato da parte loro un grande coinvolgimento. Poi c'era con me Luca Cazzolari, che è un signore il direttore di Montagna 360, la rivista del CAI, che è molto bravo col pubblico, quindi poi li ha chiamati, abbiamo fatto dei giochi in cui si giocava sulle altitudini, sulle mappe, eccetera, quindi in quel caso ho trovato grande coinvolgimento. In generale, per quanto mi riguarda, io cercherò di inculcare ai miei figli l'amore per la carta stampata, questo è sicuro. Però non so in generale come possa essere. Va bene. Se c'è qualche altra domanda, se no possiamo anche ringraziare Alessandro, la biblioteca che ci ha ospitato, il CAI di Sole Bolzano, e grazie mille per essere stato qui. Grazie, è stato un piacere. Grazie a tutti.